Santa Brigida mia divina, non fa piove alle castagne, senza tuoni e senza lampi e senza rane. O sole che nasci povero, illumina sta terra, illumina sta terra e non fa crescere. Piove alle castagne, non fa piove alle castagne.